l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. Buonasera a tutte, noi stasera leggeremo il primo capitolo del libro scritto da Rachel Moran, che è una scrittrice e attivista ormai da parecchio tempo nell'ambito della lotta contro la prostituzione e contro l'industria del sesso, e che fa parte lei di una organizzazione internazionale che fa parlare, diciamo, le donne ex prostituite o che sono state, diciamo, nell'ambito della prostituzione, dà voce a queste donne che descrivono la loro esperienza e che cercano di capire, no, che cos'è questo mondo e che cosa, quali sono poi i problemi e le problematiche che arreca alle donne che sono state prostituite, che sono state vittime di prostituzione. Rachel Moran ha scritto qualche anno fa, nel 2015, il libro Il mio viaggio attraverso la prostituzione, e questo libro verrà tradotto e verrà pubblicato presto in italiano. Noi vogliamo leggere qui alcuni capitoli. Stasera leggeremo il primo, in cui un cappello introduttivo, no? Lei fa alla sua esperienza, spiegando a grandi linee quali sono le problematiche relative a chi entra nella prostituzione, perché ci entra, anche perché, diciamo, le cause sono diverse. Lei ne parla in modo molto esteso nel suo libro, cominciando dalla sua infanzia, e in questo capitolo chiaramente tocca alcuni punti caldi che poi verranno, diciamo, sviluppati ulteriormente. Sofrimento e viver de esperança. A falta de dinheiro e má educação é uma bola de neve que vai rolando para o mar de sangue. Impunidade fortalece a insanidade de um doutor formado em pilantragem que nos nega a dignidade. É um nó difícil de se desatar, ha! Uma arma em disparo que não quer cessar. É a fome, a mentira, a revolta com a vida, a inveja, o ódio que cresce e revira. É o soco, o chute, a droga que vicia, o sequestro, o assalto, o meio mais fácil. É a forca, o estupro, o tiro, a facada, o tumor milenar que invade sua casa. A violência pode estar. como se fosse objeto qualquer que só servia pra lhe dar prazer. Os anos se passaram e eu pergunto por que a violência se propaga de pai para filho, como se fosse um gen hereditário, mas eu sei que não é isso. O que o pai fez, o filho faz. Inconsequente, inconsciente, se torna normal, uma prática natural. A violência legal não basta proporcionar meios de sobrevivência para que ocorra o fim da violência. Tem que criar mecanismos pra essa mulher lutar, crescer, sobreviver. Que a violência não é legal, a violência não é normal, a violência não é legal. La prima domanda. Ciò che rende complicato il semplice atto di provare vergogna o di biasimare qualcuno è sapere che ogni persona ha una storia precisa e più cose si sanno in merito ad essa, più semplice diventa capire perché ha fatto ciò che ha fatto. Questo libro non è un memoir tradizionale, non è stato scritto per esserlo. Non ho scritto di prostituzione concentrandomi esclusivamente sulla mia esperienza personale, proprio perché questo argomento è più grande di me ed è più grande del mio ruolo all'interno di questo fenomeno. I 7 anni trascorsi nella prostituzione mi hanno fatto comprendere come veramente si tratti di questo fenomeno, di un'esperienza non soltanto puramente individuale, ma anche collettiva. Proprio per questo ho scelto di scrivere questo libro in uno stile che oscilla tra il personale e l'universale. Quello che noi donne ci raccontiamo è molto di più delle storie dei clienti e i nostri segreti. Condividiamo un'esperienza i cui fili compongono un disegno talmente simile che alla fine ho capito che rappresentava la struttura di base dell'esperienza della prostituzione. L'immagine finale che emerge è davvero terrificante. Considero inaccettabile, e non sono per niente d'accordo, con la spettacolarizzazione o con la glamorizzazione della prostituzione. Queste non sono descrizioni reali della prostituzione, non sono nemmeno delle caricature. Non potrebbero esserlo, poiché non sono altro che delle verità amplificate. E il glamour in questo caso non ha alcun nesso con la realtà. La concezione che attribuisco alla prostituzione e le idee che ho su questa realtà mi provengono dagli anni passati a subirla e a tutto quello che ho visto, sentito e provato e testimoniato, sperimentato altrimenti a quel tempo. Non c'è alcun glamour allora, neanche l'ombra, per nessuna di noi. C'è sempre una domanda iniziale che ci si chiede sulla donna prostituita o ex prostituita. È sempre la stessa. La gente vuole sapere: come ci sei finita? Penso che sia la prima domanda perché gli umani sono creature che hanno bisogno di certezze, come quella di un percorso di vita regolare. Hanno bisogno di percorsi lineari ed è difficile rispondere perché le vite umane non vengono vissute unicamente secondo quel tipo di percorso che li rassicura. Un altro problema rispetto a questa domanda è che non si può dare una risposta esaustiva nell'arco di una sola conversazione e di certo non nello spazio di una sola frase, come al contrario si richiede. In realtà è troppo complicato sintetizzare senza che qualcosa di vitale nella risposta vada perduto. La verità è che non c'è mai un unico motivo, ma un groviglio di motivi e ogni parte che lo compone, ogni singolo filo, è altrettanto importante rispetto al bilancio complessivo di come si finisce nella prostituzione. L'obiettivo di questo libro è di prendere qualcosa di brutto e trasformarlo, come in un processo alchemico, in qualcosa di buono. Il qualcosa di buono, qui, sta nel condividere la presa di coscienza di quello che si è vissuto a vantaggio di chi vuole averne consapevolezza, ma che non ne ha mai fatto e non ne farà mai esperienza diretta. C'è qualcosa di buono in questo, lo intuisco. C'è qualcosa di buono nel mettere a nudo la prostituzione per quello che è veramente. È l'illuminazione che proviene dal far luce in luoghi bui. È l'essenziale onestà che permette di mostrare i contorni per come sono veramente. Gli uomini che usano la prostituzione sovrappongono su di essa un'immagine che è soddisfacente, gradevole e piacevole per loro stessi. Tale immagine può variare da uomo a uomo. Le uniche cose l'elemento costante e la realtà del fatto che le mutevoli percezioni maschili non cambiano per niente la sostanza dell'esperienza che vivono le donne nella prostituzione. La loro realtà rimane concreta e inamovibile. È mia intenzione con questo libro snocciolare queste verità di fronte al lettore. Non mi aspetto che nessuna di queste sia facile, poiché c'è un'altra ragione del perché la risposta alla prima domanda sia particolarmente difficile. Ed è che implica un'inevitabile conquista di sé, un doloroso scavo emotivo. Rispondere onestamente richiede lo sforzo di una penetrante ricerca all'interno di se stessi, in zone in cui non si vuole scavare, proprio perché si sa quello che si può trovare. Ma poiché le cose di maggior valore sono quelle che bisogna riesumare, le parole più preziose sono spesso quelle che devono essere faticosamente estratte dal profondo di noi stessi. Perciò dovrò essere molto meticolosa, dovrò scavare. Per tornare all'inizio, per cominciare a rispondere alla prima domanda, la mia vita familiare da bambina è stata disfunzionale, nel senso classico del termine. I miei genitori erano entrambi pazienti dell'ospedale psichiatrico locale, il St. Brendan's, che si trova a pochi passi di distanza da dove abitiamo, nel complesso di case popolari nella parte nord della città di Dublino. I registri dell'HSE dicono che mia madre era ritenuta una schizofrenica e che era un paziente ambulatoriale dell'ospedale. Mio padre era a volte un paziente ambulatoriale, altri un interno, secondo l'effetto che gli provocavano gli attacchi maniaco-depressivi di cui soffriva continuamente. Inoltre erano entrambi intrappolati nella morsa della dipendenza attiva. Mia madre dei farmaci da banco, mio padre dall'attrazione per il gioco compulsivo. Non biasimo i miei genitori e so che non erano cattive persone. Erano persone malate. Questi fatti sono fatti puri e semplici e non nascondo alcun desiderio di esibirli per commiserarmi. Li racconto qui soltanto perché sono cruciali per capire in che modo sono stata coinvolta in uno stile di vita dannoso, deprimente e distruttivo, che sarebbe stato a malapena pensabile per me il giorno in cui mi ci imbarcai per la prima volta. Scrivo queste pagine come una persona che si trova ancora in una fase di transizione. Sto lavorando per sentirmi sicura del posto che mi spetta nella società. È un viaggio difficile, perché non è come tornare indietro in un luogo qualunque. Sto viaggiando verso un luogo dal quale non dovevo partire. La nostra vita da bambini ci ha condannati all'isolamento dalla maggior parte della società e tutti eravamo cresciuti con una dolorosa consapevolezza e una disarmante accettazione di tutto questo. Lo capivamo. Era il posto che occupavamo nel mondo. La mia vita da bambina mi ha preparato alla prostituzione e l'abitudine a quella vita, a continuare a vivere al di fuori della sfera della normalità. Mi ha inoltre preparato a svolgere qualunque altro passatempo o occupazione socialmente inaccettabile. È successo semplicemente che diversi fattori temporali e accidentali si sono venuti a trovare al posto giusto in modo tale che la prostituzione mi si sia presentata come una soluzione isolata e fattibile. Sono cresciuta sentendomi separata dal mondo e da tutti i suoi abitanti, come da qualcosa di assolutamente solido, ma che io non riuscivo a vedere, odorare né toccare. Quando mi trovavo nella prostituzione da adolescente, questo senso di scollegamento dal mondo lavorava con così tanta intensità che potevo recarmi da un parrucchiere per tagliarmi i capelli, ma non riuscivo assolutamente a immaginare di essere la donna che maneggiava le forbici. Potevo entrare in un locale e ordinare un drink, ma non potevo assolutamente immaginare di trovarmi dietro al bancone a servire quel drink. C'era un senso di adeguatezza, di normalità, di rispettabilità connaturato a quei lavori socialmente accettabili. E suppongo che la cosa triste fosse che nel profondo di me stessa sentivo di non essere adeguata, di non essere normale e di non essere rispettabile. C'era in un certo senso, stranamente, un ritmo familiare nel lavoro di prostituta. Non stavo radendo il mio personale sistema di valori, non stavo sfidando l'immagine negativa che avevo di me stessa, con cui ero stata allevata e che mi aveva accompagnato tutta la vita. Ovviamente mi provocò molta sofferenza alla lunga, ma all'epoca, in un certo senso, era più facile per me accettare che non sarebbe stato possibile integrarmi nella società piuttosto che impegnarmi nello spaventoso compito di accettare il mio potenziale personale. A me quella non sembrava nemmeno una possibilità, poiché non avevo la benché minima idea di come metterla in pratica o di quale potesse essere il primo passo verso il suo conseguimento. La vita è o dovrebbe essere un'esperienza partecipativa, ma è possibile che una persona sia talmente segnata dall'esclusione subita in età precoce tanto da credere che l'unico ruolo che le spetta nella vita sia quello di osservatrice. Nel momento in cui la prostituzione prese posto sul palcoscenico della mia vita a uno dei livelli più profondi, la nostra possibile convivenza si era già consolidata. Il viaggio verso la prostituzione è stato complesso, ma il suo avvento nella mia vita è stato semplice. Ho imparato velocemente a come dividerci la scena. Era come se avessimo fatto le prove assieme prima di incontrarci. Stile di vita è un termine più calzante di professione quando si parla di prostituzione. Quando pensiamo al termine stile di vita ci viene in mente un certo immaginario. Potremmo pensare ai cocktail, al caffè, ai cornetti, oppure agli yacht, ai porti, alle vacanze rilassanti, avvincenti delle persone abbienti. Potremmo pensare alla custodia dei bambini, ai mutui ipotecari, al pendolarismo quotidiano. Questo non è il tipo di immaginario che voglio ricordare qui. Quando parliamo di stile di vita, la maggior parte di noi, perfino le prostitute, non pensa alle donne inginocchiate nei vicoli e negli alberghi. Questo non coincide con la visione dello stile di vita che ha la coscienza pubblica. Tuttavia dovrebbe, perché stile di vita vuol dire in realtà il modo in cui vive una persona. E questa non è un'occupazione che può essere lasciata fuori dalla porta d'ingresso. Un lavoratore di un'altra categoria può tornare a casa e appendere il cappello al chiodo, per così dire, ma un complesso mosaico di fattori fa sì che una prostituta non possa fare altrettanto. In primo luogo non è possibile discutere apertamente di ciò che fai, di conseguenza sei vincolata alla segretezza, il cui effetto peculiare è proprio quello di allontanarti dai membri della società normale. La compagnia delle altre prostitute è l'unica in cui puoi essere onesta, con cui puoi discutere della giornata trascorsa, dei progetti della settimana successiva e dell'atroce esperienza avuta la notte prima. È l'unica compagnia in cui di sicuro non sei messa in ridicolo per ciò che hai fatto. È l'unica compagnia in cui puoi ricevere una totale comprensione rispetto a come sei finita lì, al perché ti trovi lì e al perché forse non riuscirai mai ad andartene. Sei spinta a frequentare la compagnia di un gruppo di persone, allo stesso tempo ti allontani dalla compagnia di altre. Non esiste una sola motivazione per questo, ce ne sono diverse. Come prostituta sei in genere una lavoratrice notturna. Dormi bene di giorno quando i membri normali della collettività di solito vanno al lavoro. Quando stanno per rincasare e si preparano a distendersi dopo la giornata trascorsa, tu non sei più distesa e ti stai preparando alla tua giornata. Questo è un mero aspetto pratico che ti separa dalla società e non è assolutamente il più pervasivo. L'abuso di alcol e di droghe è endemico. Siamo tutti abituati allo stereotipo della tossicodipendente che entra nella prostituzione di strada per nutrire la sua dipendenza. Questo avviene nella prostituzione, io l'ho visto, ma quel che ho visto ancora più di frequente è come le donne in prostituzione sviluppino dipendenze che non avevano mai avuto in un primo momento, in genere dall'alcol, dal Valium o da altre sedative su prescrizione medica o dalla cocaina. Queste sostanze si utilizzano per attenuare il puro ribrezzo generato dall'avere rapporti sessuali con valanghe di sconosciuti sessualmente ripugnanti, tutti violenti in un certo senso, coscienti o meno di esserlo, e molti dei quali deliberatamente tali. Queste sofferenze offrono un sollievo effettivo e una via di fuga. Il grado di abuso di alcol e di droghe nella prostituzione non mi sorprende affatto, difatti me lo sarei aspettato, dato le circostanze. Questa forma di dissociazione chimica è molto incoraggiata, anche se involontariamente, dalle donne stesse. Come in ogni storia individuale, le persone si influenzano a vicenda e laddove sia presente nella stessa comunità di persone il bisogno di dissociarsi dalla realtà e l'esempio costante che ne viene dato, i presupposti affinché ciò accada sono serviti su un piatto d'argento. La dipendenza dalla droga e dall'alcol crea un'ulteriore frattura tra la realtà della vita vissuta nella prostituzione e quella della società circostante sul piano psicologico ed emotivo. E in molti casi la dipendenza dalle sostanze accelera la quantità di tempo che una donna deve dare di sé alla prostituzione, mentre la dipendenza cresce di intensità e manifesta una fame che solo il denaro può saziare. L'effetto è ovvio. La prostituzione ha generato una barriera concreta sotto forma di dipendenza, il cui effetto cumulativo è quello di costringerla ulteriormente a prostituirsi e di allontanarla ancora di più dalla società convenzionale. Il senso di alterità che prova la donna adescata da questo stile di vita è talmente forte che inizia a considerarsi totalmente diversa dagli altri membri della società, tanto da non credere nell'eventuale possibilità o fattibilità di poter prendere parte a quella società. Con questo voglio dire che non crede nella possibilità di un posto fisso, di ricevere un'istruzione, a volte perfino di intessere relazioni con persone che vivono al di fuori della sua sfera quotidiana. Non è possibile, quando ci si guadagna da vivere illegalmente, conseguire un mutuo in modo onesto o un prestito per un'attività commerciale, eccetera. E questo allontana la donna ancora di più dall'ambito di quello che si considera un normale membro funzionale della comunità. Ritengo che questo valga in modo particolare nel caso di una persona come me, il cui primo reddito regolare proveniva dalla prostituzione e che di conseguenza non aveva avuto esperienza di una realtà lavorativa diversa. Era, posso confermarlo, qualcosa che ritenevo del tutto inimmaginabile, il fatto di poter mai essere una qualunque parte funzionale della società che vedevo ogni giorno attorno a me, e questo era qualcosa che mi causava e che allo stesso tempo scavava in me un enorme risentimento. Se mentre camminavo lungo il quartiere a luci rosse la sera presto vedevo un gruppo di giovani donne camminare assieme vestite con abiti da lavoro di una delle banche locali, come spesso accadeva nei dintorni della zona di Baker Street, venivo colta da un'enorme ondata di gelosia e di risentimento che mi trafiggeva dilaniandomi in modo che riesco a malapena a giustificare o a descrivere. So adesso, a distanza di anni e dopo tanto tempo passato ad analizzare i miei sentimenti, che le percepivo fortemente come appartenenti al mondo che le aveva accolte, da cui io ero stata esclusa, e per questo provavo per loro un odio sconfinato. Posso assicurare che questa specie di risentimento esclude ulteriormente la prostituta, poiché lei non soltanto non costituisce parte della società, ma si percepisce in contrasto ad essa. La società, in cambio, conferma le ostilità. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchavos. Eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos. Mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos. Eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu aguento até os estetas. Eu não julgo competência. Eu não ligo pra etiqueta. Eu aplaudo rebeldias. Eu respeito tiranias e compreendo piedades. Eu não condeno mentiras. Eu não condeno vaidades. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Não, não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que amem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que amem. Eu gosto dos que têm Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the face. Gli atteggiamenti e le opinioni rivolti alle prostitute non sono quasi mai positivi. Una prostituta è accettata soltanto all'interno della sfera della prostituzione. Di conseguenza, paradossalmente, comincia a sentirsi sicura nel posto in cui è meno sicuro trovarsi. Gli anni passano, la sua amicizia con le altre donne della sua stessa categoria è cresciuta. Di conseguenza si è consolidata e spesso non c'è alcun aspetto positivo che lei riesca a cogliere nella compagnia di altre persone. Personalmente frequentavo un giro di amicizie più ampio e ne sono felice, ma quel senso di chiusura nei confronti di chi è fuori dalla prostituzione esisteva di fatto dentro di me a un livello piuttosto alto e ho potuto constatarne la presenza a un livello quasi totale negli altri. Dopo alcuni anni ti accade improvvisamente di non riuscire a dare una spiegazione ufficiale a questi anni, a quegli anni passati. Ad esempio, se una donna attiva nella prostituzione tenta di compilare un curriculum vitae, si troverà presto a fissare pagine bianche impossibili da riempire. Si rende conto di aver imboccato una strada da cui è impossibile fare ritorno. Da qualche parte lungo il cammino, in un momento in cui lei non è in cui non stava nemmeno a guardare, un cancello è stato sbattuto con forza dietro di lei e sembra che ora non ci sia modo di tornare indietro. Oltre ad essere una criminale agli occhi della legge, scopre adesso di non riuscire a giustificarsi di fronte alla burocrazia a qualunque livello. Di conseguenza è allontanata ulteriormente dalla società e questo ha l'effetto di confermare e peggiorare quello che ha sempre provato, un ulteriore senso di separazione, di solitudine e di distacco. È ancora più depressa e distaccata dalla collettività e la spirale discendente continua a scendere sempre più giù. Di conseguenza, di fatto, per via di tutti questi fattori che si combinano insieme per dare forma a una sottocultura di cui lei è ormai parte integrante, poiché ove si trova nel mondo, ora si trova nel mondo della prostituzione. Stile di vita è un termine sicuramente più calzante di categoria e di certo di gran lunga migliore di professione. Fortunatamente per me, il mio senso di identità personale deve essere strato più forte del mio senso di identificazione col ventre molle della società. Perfino nei tempi peggiori e addirittura in seguito, quando facevo la escort ed ero tossicodipendente, o nei miei primi anni adolescenziali in strada, in cui incontravo una quantità disgustosa di clienti ogni settimana. Sebbene non potessi immaginare di far parte della società che mi circondava, avevo una percezione chiara di chi fossi come individuo e quella fu una fortuna per me, dato che perdere il senso di sé, di chi sei veramente, è la cosa più semplice che esista al mondo per una prostituta. A prescindere dal fatto di vivere in un mondo che sarebbe stato inimmaginabile prima, e la separazione del senso di sé che inevitabilmente questo comporta. La battaglia parte dall'esterno, oltre che dall'interno, e in tutto questo la società contribuisce a convincerti del tuo nuovo status di spregevole pezzo di merda. Troia, sgualdrina, battona, puttana, queste parole sono rivolte a te nel senso più autentico della parola, ed è facile sentirsi scissa da quella che sei, dimenticarti di chi eri. E di certo puoi tracciare la traiettoria della tua transizione, ma non potrai mai riportare indietro la persona che eri prima che avvenisse quell'evoluzione distruttiva. La cosa triste sta nello stigma sociale che ti cuciono addosso, ma la cosa importante è ricordarsi che esso esiste in realtà solo nella percezione delle persone. per cui se sei in grado di leggere le percezioni degli altri come sono, come cose di poco conto ai tuoi occhi, riesci nel compito più arduo di annullare le percezioni negative in relazione a te stessa, allora sarà possibile riemergere sull'altra sponda della prostituzione e fare come minimo qualche sforzo decoroso per superare ciò che resta della persona che eri. Quei rimasugli disgraziatamente possono essere difficili da trovare e sono ancora più difficili da riconoscere subito dopo la guarigione. Ho trascorso 7 anni nella prostituzione e ne sono passati 14 da quando ne sono uscita, ma sebbene abbia trascorso fuori di essa il doppio del tempo passato al suo interno, resta tuttora, inevitabilmente, una delle esperienze più chiare, più istruttive della mia vita. Essa ti forma e ti plasma in modi particolari. È duro da constatare per chi non si augura di essere definita da quell'esperienza, ma se chi ci è passata serba un qualche desiderio d'onestà rispetto alle conseguenze che essa comporta, l'accettazione di quanto accaduto diventa di primaria importanza. È stata un'università in un certo qual modo. Ho imparato molto, probabilmente più di quanto ne sia consapevole. Ho affinato delle abilità di cui prima ignoravo persino l'esistenza e di cui mi servo spesso, essendone cosciente solo a metà, ancora oggi. L'arte di far venire un uomo il più rapidamente possibile, per quanto difficilmente questa possa essere considerata un'abilità, è stata una delle prime cose che si imparano, per il semplice fatto che il tempo è denaro e più velocemente un uomo raggiunge l'orgasmo, più velocemente si può passare a quello successivo e ai suoi soldi. Questa è una cognizione che si acquisisce con i clienti regolari, alle cui inclinazioni sessuali si è fatta l'abitudine. Oggi non ho più bisogno di fare così. L'atto sessuale che si ha con qualcuno che si ama e quello che rientra nella dinamica puttaniere prostituta sono diversi tanto quanti se ne possono immaginare. In effetti, dubito sia pensabile per qualcuno che non abbia mai avuto esperienza della profondità della distinzione. So che non me lo sarei mai potuta immaginare prima di averlo sperimentato in prima persona. Un'altra delle cose che ho imparato attraverso la prostituzione è stata una percezione più elevata delle intenzioni delle persone. Questo mi è stato utile sia dentro sia fuori della prostituzione. Mi ha anche cambiata e mi è servito da monito in rapporto a quanto sono cambiata. Non si è trattato di una trasformazione innocua e la strada verso il cambiamento è stata lunga. Non è iniziata per la prima volta con la prima volta in cui ho fatto sesso per denaro, ma con la disfunzionalità della mia famiglia. Le tappe successive lungo il tragitto sono state lo svantaggio educativo e la mancanza di una fissa dimora durante la mia adolescenza. È una storia familiare nella prostituzione. È la storia più diffusa che abbia mai conosciuto. Descriverò ora l'esperienza che ne ho fatta. E potete star certi che le storie di innumerevoli altre vi riecheggeranno dentro. Ma prima di procedere vi spiegherò per quale motivo ho deciso di scrivere questo libro a titolo personale. Sweat, faded breath. Sono stata in dubbio se scrivere questo libro in forma anonima o a titolo personale per molto tempo. Ho preso in considerazione la questione dell'anonimato e mi sono chiesta se la segretezza e la vergogna sono i fili intrecciati insieme che compongono il tessuto di questo disegno e la segretezza svanisce in seguito alla rivelazione. Il disegno stesso si disintegrerà? Rivelare la mia identità potrà mai liberarmi in un modo o nell'altro dalla vergogna? Può anche darsi, ma una vergogna svelata non è una vergogna dissipata. Nei miei momenti più bui penso che svelare la mia identità potrà soltanto alterare il tessuto di questo indumento e potrà farlo riemergere in una nuova incarnazione, una trama intessuta da un unico filo composto unicamente dalla vergogna messa a nudo. Quale delle due corrisponde al vero? Forse entrambe, e non ha senso chiederselo. Ad ogni modo, non avrei mai potuto sentirmi a mio agio all'idea di scrivere questo libro in forma anonima. Sentivo che per scriverlo pubblicamente avrei dovuto solo condividere la vergogna con mio figlio e il resto della mia famiglia. Eppure non riuscivo a trovare pace nell'anonimato. Di conseguenza, per molto tempo mi sono sentita in difficoltà. Volevo soltanto dire la verità, ma come avrei potuto considerare vero il mio racconto se fosse stato impresso su una copertina con un nome che non era il mio? Non mi sarei sentita in colpa nel presentarmi ai lettori con una scorrettezza prima ancora che potessero leggere la prima pagina? Pubblicare questo racconto con uno pseudonimo mi ha fatto sentire per molto tempo come se avessi accettato la sfida di raccontare la verità e mi fossi arrestata di fronte al primo ostacolo. La cosa mi infastidiva tremendamente. Ho abbinato ripetutamente il mio nome di battesimo a una miriade di cognomi nello sforzo di trovare uno pseudonimo. Lo facevo perché pensavo che se avessi mantenuto il mio nome non mi sarei sentita tanto male all'idea di non essere stata in grado di pubblicarlo col mio nome completo. Non funzionava, e riflettendoci bene, perché mai avrebbe dovuto. Il mio nome unito a un altro qualunque non è in ogni caso il mio. Sentivo la necessità di uno pseudonimo come una cosa ovvia. Eppure non riuscivo a soffocare dentro di me la fastidiosa convinzione che pubblicare il mio resoconto con un altro nome sarebbe stato come dare una testimonianza incompleta, come non esserne del tutto padrona. Non riuscivo a trovare pace nell'essere rappresentata da un qualsiasi di quei nomi. Che fare quindi? Alla fine una risposta è arrivata. Avrei utilizzato il cognome del mio compagno. Nell'istante in cui lui lo suggerì, sapevo che sarebbe stato l'unico nome al mondo a comparire sulla copertina di un libro che non mi avrebbe infastidito. E così eccolo lì, e andava tutto bene. Se non che ci siamo lasciati mentre scrivevo il libro, ed io sono tornata di nuovo al punto di partenza, a chiedermi con quale nome mi sarei dovuta chiamare. Decisi di porre fine alla battaglia interiore e scelsi un nome che esprimesse la qualità che mi piacevano. La regina Meve è stata una regina guerriera irlandese e io so che le verità che sto per rivelare qui saranno in aperta contraddizione con le tante stupidaggini che circolano sulla prostituzione, per cui pensavo che mi avrebbe fatto comodo un po' della sua forza. Inoltre il folklore e vuole che la regina Meve una volta avesse chiesto una pausa durante una battaglia perché le erano venute le mestruazioni. Non era preparata, persino dalla natura stessa, a essere messa in una situazione di ingiusto svantaggio rispetto agli uomini. Mi piaceva il suo stile. Ho sempre ritenuto che il cognome Conway avesse un certo tono melodico e avevo l'impressione che si sposava bene con Meve. Scopersi, quando cercai il significato di Conway, che aveva due possibili significati, tra cui temibile guerriero, per cui i due nomi sembravano andar bene insieme. Eppure, sebbene avessi deciso di adottare uno pseudonimo, ciò non placava certe mie paure in merito al dover rendere pubbliche queste verità. Se l'analisi di questa verità sulla prostituzione ha comportato un certo tipo di dolore, presentare la verità agli occhi del pubblico ne comporta un altro. Questo tipo di dolore che provavo mi ha accompagnato costantemente in ogni fase che ho scritto e se ne andrà soltanto quando scriverò l'ultimo punto finale. Pensare in realtà alla pubblicazione del libro, pensare queste verità di fronte al pubblico, comporta un dolore di tipo diverso, composto di varie parti. C'è un costante sentimento negativo a un livello basso, la paura e la paranoia di uscire allo scoperto. C'è un atteggiamento difensivo, il presentimento di essere giudicate. E c'è ovviamente la vergogna. Oggi mi sembra come stia rallentando, ma non tutti i giorni sono uguali e la vergogna, ho scoperto, è più testarda del dolore. La vergogna non defluisce lentamente col tempo. A volte nasconde il volto per un po' e sembra sgattaiolare via dalla vista, solo per poi riemergere dall'ombra a grandi passi e con fare risoluto per mettersi al centro della scena della tua vita, viva e pulsante come il primo giorno che l'hai incontrata. Il dolore può, e in effetti gioca questo antipatico scherzetto, ma non ha la stessa persistenza e la medesima longevità della vergogna. Ho immaginato che la vergogna indossasse una maschera, come quelle che si vedono ad Halloween. Il suo volto è sempre ripugnante. Non riesco a distinguerla con chiarezza oggi, ma so che questo non vuol dire che se ne sia andata. Ho deciso in questa sede di non indossare una maschera, nemmeno quella che preferivo, per certi versi, perché togliermela è il modo che ho di affrontare la vergogna e sfidarla a fare lo stesso. È per questo che ho deciso di dire al mondo che mi chiamo Rachel Moran. Restrictions, I found myself trying to change you. If you were meant to be my lover, I wouldn't have to. And I feel so mean, I feel in between. Cause I'm about to forgive you. Cause you would end up your ex girlfriend. Cause you would end up your ex girlfriend. I hope I hold a special place. Allora, questo era il primo capitolo del libro di Rachel Moran, il mio viaggio attraverso la prostituzione. In realtà sì, questo libro si chiama Paid For, cioè pagata per il mio viaggio attraverso la prostituzione, questa è la traduzione letterale. Ovviamente poi il libro verrà pubblicato pubblicato a breve e chiaramente il titolo non sarà questo. Ad ogni modo ci vediamo fra 4 settimane e continueremo a leggere questo libro assieme a voi. Grazie, buonasera. Nothing was as real as this street. Been both of my feet descending into air. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, and offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat, yeah, eat the summer cannibals, eat, eat, eat. Needles in a ring, and I saw their souls are withering like snakes in chains, and they wrap themselves around me. What a cheat! And they rattle their tails, hissing, come on. Boys, I've had enough.